questo. Ma se finisse qui il discorso, dobbiamo dire, se questa casa è un'abitazione provvisoria, non vi ci attacchiamo troppo, non vi ci attacchiamo troppo. Mi offrite voi, quello che io vedo da qui, vedo dei posti vuoti. E non faccio né nomi né cognomi, intendiamoci, non saprei neanche dirli. Ma qualcuno invitato a pensare all'anima questi giorni mi ha tirato fuori, ma sa, omicino, abbia pazienza, io ho fatto i miei progetti, ho da andare in Jugoslavia a fare un giro, ho da andare all'isola d'Elba, quell'altro, voglio tinteggiare la casa, quell'altro dice, voglio darmi, non so, la campagna, eccetera, e così. Hanno rifiutato. Non ci attacchiamo troppo a questa casa, intendo dire agli affari di questa casa. D'altronde, se ci capita una tegola fra testa e collo, se ci capita un po' di febbre, dobbiamo andare anche dove noi non andremmo tanto volentieri, all'ospedale. E là i giorni, augurandoci di non andare all'ospedale sotto le ferie. Non troviamo neanche forse il portinaio. Comunque dico, non ci attacchiamo troppo a questa casa. Diamo importanza alle cose importanti. E un po' meno importanza a quelle che hanno meno importanza. Qual è l'importanza che le riassume tutte? Quella di prepararci a quella seconda casa. Qui è provvisoria, quella è stabile. È una parola che ci dà fastidio, quella della provvisorietà. Proprio ieri ho venuto a trovarmi una persona. Sa, fino a qualche giorno fa ero provvisorio, provvisoria. Adesso finalmente, dico, ma scusi, anch'io sono provvisorio qui. E no, questa è casa sua. Siamo tutti provvisori. Dove saremo stabili? Di là del valico, di là del ponte. E c'è un proverbio italiano che dice non fabbricar la casa sul ponte. Sui ponti non si costruiscono case. Se tu tenti di costruirla, ci sarà chi te la butta giù. Il ponte di passaggio. Costruisci su terraferma. Sul retroterra, costruisci sulla roccia, non sopra un ponte, il ponte di passaggio. Attenzione, questa casa, la prima casa che abitiamo, è di passaggio. È di passaggio. Perché non volerci pensare a questo? Mentre quando sappiamo che è così e ci convinciamo, le cose non vanno peggio, vanno meglio. Vanno meglio. Vanno meglio. A me capita di dover cambiare casa e letto ogni tanto, no? E anch'io faccio quasi sempre in bianco la prima notte quando vado a predicare, supponete in Sardegna, in Sicilia, sono nel Meridione, o su da noi nel Trentino. E a volte mi danno anche una stanza, un appartamentino discreto, ecco. Ma sarei sciocco se arrivato là per starci una settimana mi mettessi in testa di starci per sempre. E subito andassi a comprarmi dei tappeti orientali da mettere in terra. Un lampadario artistico, un bagno acqua fresca, acqua calda, acqua tepida e poi tutto quello che ci va dietro. Oh, povero me, ma scusi, si è affezionato a quel mobile, a quello specchio, a quel tappeto? Ma guardi, sa che lei domani deve partire. Ah, siamo appena arrivati ed è già tempo di partire. È bene saperle le cose, non essere degli imbambolati. Gesù ci chiamerebbe con una parola un po' forte che solo lui può dire, stolto. Stolto è una delle parole più forti di tutta la Bibbia. Vuol dire, povero figliolo mio, ma tu sei pazzo, tu non ragioni, ti ho dato l'intelligenza perché tu capisca la caducità delle cose. Ma la morte non viene tutti i giorni a prenderne sulla faccia della terra almeno 250.000 ogni giorno, in media 300.000 ogni giorno, come una città intera. E tu che gli distacchi sempre? E acquisti di qui, comprovendite, e soldi, e titoli, e questo quest'altro. Certuni hanno la mania dei mobili, e cambiano mobili ogni 5 anni, e vestiti a non finire, l'80% è sprecato negli abbigliamento. Stolto, dai importanza a quello che non ne ha, ti logori per quello che passa, e trascuri ciò che è importante e che dura per sempre. Che stai qui a fare in questa prima casa? A prepararti mattone su mattone la seconda casa che già Dio ha costruito da sempre nel suo amore infinito ed eterno, il paradiso.